Lettura, cucina. Lettura e cucina. Collezionismo di vario genere, dalle cartamonete alle monete, ai francobolli, cartolini e tanta altra roba. Lettura, cucina. Lettura e cucina. Cinema, molto mi piace il cinema. Sicuramente mi sono avvicinata al cucito. L'arte, che diciamo è il mio motore immobile nella vita. Lettura, cucina. Lettura e cucina. Andare nei musei. Adesso entro nella Pinacoteca Nazionale, abito a Roma, visito tutti i giorni luoghi di questo genere. Ciao, mi piace molto leggere, ballare e anche un po' filosofeggiare. La musica, quindi andare a concerti. La giustizia. Cinquanta minuti di riparazioni. Buongiorno! Buongiorno! Bentornate, bentornati! Alla ciao Giulia! Ciao Leo, ciao! Come stai? Molto bene, tu come stai? Ti è tornata la voce? Sono in gran forma. Sei in gran forma, sì, ti vedo e ti sento forte e chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. Sono molto molto felice. Ho con me sempre una persona che ormai non mi muovo più senza. Ma che fortuna! Un'ombra. Eccola, dall'angolo la più oscuro, non di vi preoccupate. Cosa? Dell'Accademia di Belle Arti? C'è chi dice non si sa chi, ma... Lei non lo deve sapere. Io non devo mai sapere niente. Possiamo procedere, Leo? Sì, lui è un grande quasi quanto Daniele Di Ferro. Però devo dire che questa cosa che gli uomini di questa trasmissione sono quelli che usano anni di più comincia a starmi un po' stretta. No, esatto. Anche le ragazze che sono con noi oggi belle e brave. Belle tutte le volte, belle e brave. Belle e brave. Ma anche tu sei fortissima. Grazie. Sei, adesso è un momento proprio terapia dai. Di Grug. Come? Sei dai. Senta, signor Duccio, allora, visto che lei è qua con noi sempre, dica almeno il nome del nostro programma, che magari qualcuno ancora, non pochi, ma magari ancora qualcuno non ci conosce. Infatti... Neanche lei si ricorda il nome del programma. Prendo le carte. 50 minuti di riparazione. Bravissimo. 50 minuti di riparazioni solo su Radio Città Fujiko, in realtà anche sul sito dell'Accademia di Belle Arti. Dopo la diretta. In diretta. C'è anche la possibilità di una diretta, però insomma non diciamo cose che non sappiamo. Esatto, non parliamo a vanvara, però siamo su Radio Città Fujiko tutti i venerdì questa è una battuta a cui ha dedicato signor Duccio quante delle 150 ore in cui quelle che si meritava. Giustamente. Beh, giustamente. Giulia, siamo quasi a metà fine, puntata. No, ah, no, no dicevo. Metà puntata, no, dico, sono siamo di... quasi alla fine di siamo questo più percorso di, là che di qua. 50 minuti di riparazione. Io sono un po' triste, lei signor Duccio? Come sempre. Sto seduto. Lei probabilmente rimarrà qua, fa le 150 ore ben oltre 50 minuti ora, di riparazione. Dovrò parlare con il mio avvocato prima. Che chi è? Sempre il suo servo Natalio. E beh, chiaro, Comunque, siamo arrivati oltre la metà, caro Leo. È stato un anno lungo, ma poi è volato via. Così. Quarta puntata è stato un anno. Un anno, va bene, nel senso che la preparazione. Beh, abbiamo lavorato molto a questa puntata, le due ragazze che sono qui con noi. Ve le presentiamo subito o vogliamo prima dire le solite cose su come contattarci? Se volete contattarci, ci scrivete su riparazioni@babbo.it e basta. Quindi io le presenterei. Sì, che si meritano lo spazio. E si meritano anche un applauso come duopo. Brave. Duccio, un attimo, dopo che abbiamo detto i loro nomi, vengono qua per parlarci della nostra puntata di oggi direttamente dal biennio di didattica e comunicazione dell'arte. Non mi chiedete di ricordare il nome del corso perché non ce la posso fare. Maria Rosa Cuccito, ho detto bene, e con due Cuccito e Camilla Sollazzo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Carichissime. Noi sempre cariche. Sempre pronta l'azione. Dai, belle Lucio, e brave. Ecco, belle e brave. Belle e brave e anche molto laboriose, perché ci hanno preparato oggi una puntata di tutto rispetto e molto molto bella. Ragazze, di che cosa parliamo oggi? Forse chi all'ascolto magari può avere intuito dalle voci della strada che abbiamo raccolto, che abbiamo ascoltato in apertura, ma ditecelo voi, qual è il tema a cui ci dedichiamo oggi? Il grande tema di oggi è, rullo di tamburi, coltivare. Ah, perché l'hanno detto assieme. Sono brave, preparate. Le abbiamo preparate bene. Coltivare, che andiamo a specificare, perché detto poi in questo quartiere potrebbe subito prendere delle derive un po' ambigue, invece no, è molto collegato al fatto che ci troviamo nel quartiere dell'accademia, dell'università, del sapere, del fermento culturale. Quindi coltivare cosa? Coltivare nel senso di alimentare le passioni, coltivare come esercizio ed educazione, quindi andare a dedicarsi con impegno ad attività soprattutto intellettuali. Lei, signorina Camilla, mi sta facendo riferimento proprio all'aspetto etimologico della parola. Sì, siamo andate molto sull'intellettuale. Brava, abbiamo studiato con il Treccani alla mano, ci siamo messe lì e abbiamo visto qual è la definizione effettiva. Bravissime. E quindi coltivare oggi, andiamo un po' a esplorare che cosa, Maria Rosa? Spiegaci un pochino. E come diceva poi Camilla, quali sono le passioni che ognuno di noi coltiva nella vita? Dalla musica che ascoltiamo alla facoltà che poi decidiamo di intraprendere, come l'accademia che stiamo facendo poi noi. E a proposito di Accademia di Belle Arti, andiamo subito a presentare quelli che sono i nostri due ospiti di questa puntata e che proprio dell'Accademia di Belle Arti sono stati studenti e frequentanti. Eccoli qua con noi, Nicola Melinelli e Susan Quartesan. Ciao. Buongiorno, grazie. Ciao, benvenuto. Grazie per essere qua con noi oggi. Grazie a voi. Grazie. Beh, direi che le nostre Camilla e Molly ci fanno una breve presentazione delle due persone che abbiamo qua oggi, poi dopo partono anche con le domande che hanno preparato per voi, ok? Vai Camilla. Ok, abbiamo Nicola Melinelli, artista della classe 88, originario delle Terre Umbre. Vive e lavora a Bologna dagli anni di studio in accademia. Sono proprio questi gli anni in cui comincia a scoprire la sua poetica e si ritrova a vivere al Civico 1, interno 4 di via Sigismondo, che dal 2011 al 2014 diviene la sede del Project Space interno 4, uno spazio di incontro che inizialmente nasce come abitazione e studio di 5 artisti conviventi che aprono le porte del loro appartamento ad altri giovani artisti attivi nel panorama italiano e internazionale. Respira Camilla, è andato tutto bene. Ti torna tutto, Nicola. Ho fatto una filata unica. Tutto perfetto. Procediamo con Susan. Oggi invece in rappresentanza del Open Bedroom Collective abbiamo Susan Quartesan. E il collettivo nasce nel novembre del 2022 per volere di alcuni studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Nasce come spazio sicuro di condivisione, un luogo di aggregazione dove si incontrano le arti. La scelta della parola bedroom nasce proprio dalla camera da letto, perché è da lì che parte tutto. In un luogo dove ci nascondiamo, studiamo ed esperiamo. Bedroom è un luogo aperto, popolato da artisti e artiste che vogliono esprimersi parlando di uno spazio intimo per condividerlo. Ogni membro del collettivo collabora con esso come lavora individualmente per mostre o progetti personali. Torna tutto, Susa? Perfetto, yes. Perfetto, siamo partiti bene. Ottimo. Beh, vediamo che domande avete preparato per i nostri due ospiti. Beh, direi che per iniziare, Nicola, se ci vuoi parlare un po' di quella che è stata la realtà di Interno 4, per l'appunto. Sì, allora, Interno 4 è nato, appunto, come dicevi prima, un po' come fondamentalmente noi condividevamo la casa, eravamo tutti studenti qui in Accademia, l'Accademia di Belle Arti di Bologna, condividevamo l'appartamento, era un appartamento molto grande che quindi ci consentiva di utilizzare alcune stanze come camere da letto e altre come studi. E quindi fondamentalmente a un certo momento abbiamo iniziato a pensare che poteva essere bello invitare delle persone a risiedere a casa nostra per un periodo più o meno lungo, più o meno prolungato, e durante questo periodo di residenza convivere con questi artisti che noi invitavamo e aiutarli a produrre, tra virgolette, produrre, perché poi era una produzione sempre un po', come dire, autogestita, autofinanziata, quindi stiamo parlando sempre di budget abbastanza ridotti, però insomma fondamentalmente ospitare questi artisti per organizzare loro delle mostre. Quindi li invitavamo, stavano da noi, gli davamo in disponibilità una o due camere della casa a seconda delle loro richieste, e dopodiché, insomma, di base li supportavamo in tutte le varie fasi della realizzazione del lavoro, dal reperire i materiali a eventuali altre necessità in città, trovare artigiani, contatti, cose così, poi anche a tutta la fase di comunicazione dell'evento. Producevamo delle piccole pubblicazioni per ogni mostra, e quindi sì, di base era uno studio che voleva aprirsi verso l'esterno. Facciamo la stessa domanda a te, Susan, quindi cerchiamo di capire anche per te come è nato Open Bedroom Collective. Vorrei avere una bellissima storia di genesi dove ci sono draghi e mostri e combattimenti in cui ci uniamo con le nostre forze, però è molto molto più semplice di quanto si possa immaginare. Sono state un piccolo gruppo di artisti e artiste che si sono riuniti, si sono detti: ah, vogliamo fare proprio qualcosa, vogliamo assolutamente far vedere. Il primo stimolo è stato: facciamo vedere all'esterno che cosa possiamo fare, e di unire tanti lavori che fossero diversi tra loro, quindi un piccolo senso di comunità tra di noi. Inizialmente era nato come sentimento per promuovere i fumetti, quindi un po' chiuso nel suo settore. Però ci siamo resi conto di come in realtà, prendendo con noi momentaneamente, temporaneamente, più o meno, dipendeva dai periodi, delle disponibilità, altre persone, altre realtà che facessero cose diverse dai nostri progetti come persone singole, ci siamo resi conto che l'arricchimento era incredibilmente vasto e potenziale. Quindi è nato appunto Bedroom per racchiudere in sé tante piccole realtà che potessero entrare in questa ipotetica stanza, perché non c'è sede fissa, magari come raccontava lui prima, non c'è sede fissa, perché siamo noi che con la nostra unione creiamo questo luogo di aggregazione in cui le persone sono libere di entrare e uscire quando vogliono e di sentirsi a loro agio intimamente e esprimere la loro persona attraverso l'arte. Passiamo un attimo invece a qual è stato il vostro percorso di studi e come possa aver influenzato la realizzazione appunto di questi due collettivi. Ok, allora io mi sono diplomato all'Istituto d'Arte di Betto di Perugia, la città da cui provengo, e dopodiché mi sono trasferito a Bologna appunto per l'Accademia di Belle Arti. E come dire, la connessione che il mio corso di studi ha con Interno 4 molto probabilmente è che eravamo tutti allievi di un'unica cattedra di pittura, quindi si creava questa realtà di confronto continuo sia in laboratorio, quindi sia nell'aula di pittura, che a casa. Quindi questo continuo essere sempre tra di noi a confrontarci, quando eravamo in aula anche con gli altri studenti dell'Accademia, però tendenzialmente eravamo molto legati, molto gruppo tra di noi. Sicuramente a questo portato poi la voglia nel tempo di rendere la cosa anche esterna all'Accademia, quindi creare questo momento di confronto anche a casa e renderlo ufficiale, renderlo istituzionale, tra virgolette, uscire fuori. Noi siamo nati, come l'ho un po' accennato prima, siamo nati come punto di aggregazione nel corso di triennio di fumetto e illustrazione, e tendenzialmente eravamo tutti e tutte tendenti appunto al fumetto e ci siamo iniziati a sviluppare in quel modo. La cosa interessante del nostro corso è che rispetto ad altri corsi di fumetti in Italia, almeno da quelle che sono le nostre esperienze, i nostri confronti con altri studenti da altre realtà, è che il nostro corso tende a cercare un po' di sperimentare quello che è il fumetto. Quindi l'idea di coinvolgere anche altri studenti che venissero da pittura, scultura, che fossero stati in passato studenti e così via, è stato quasi spontaneo per creare un po' di rete. Quindi pian piano dall'idea del facciamo una fanzine, facciamo una raccolta di fumetti, è nato il proviamo a vedere dove si può espandere questa idea del fumetto. Quindi il senso è sempre quello di cercare di far incontrare le persone e di non tenerle chiuse né a tempistiche troppo strette né a un gruppo chiuso, ma che sia un continuo scambiarsi e cercare di influenzarsi a vicenda. La domanda viene spontanea, quindi: che effetto ha sulla vita di un artista essere membro di un collettivo artistico? Interviene a diversi livelli. Prima di tutto, quando il progetto era attivo, quindi appunto, perché sì, tengo a precisare anche questo, adesso attualmente Interno 4 non è più attivo, quindi è un progetto che si è concluso, e mentre era attivo invece impegnava sia a livello fisico, a livello materiale, moltissimo, perché comunque noi tendevamo a fare circa, all'incirca, una mostra ogni 2 mesi, quindi fondamentalmente noi ci trovavamo ogni 2 mesi ad avere una settimana / 10 giorni un artista o un gruppo di artisti, nel caso in cui si stesse facendo una collettiva, ospiti a casa, svuotare delle stanze, essere comunque disponibili per loro, reperire materiali, quindi comunque era un impegno di tempo molto importante durante l'organizzazione dell'evento. Ma in più poi nel tempo il progetto man mano negli anni è un pochettino cresciuto, quindi man mano che passavano, cioè che passava il tempo e che facevamo eventi, il progetto si è sempre un pochettino più stabilizzato, ingrandito, quindi in realtà a un certo momento l'impegno iniziava a essere veramente importante, intenso, perché oltre al periodo di residenza dell'artista poi noi avevamo sia prima che dopo tutte delle fasi di preparazione dell'evento, quindi inizia a preparare la pubblicazione, stampa la pubblicazione, cerca contatti per invitare persone, quindi insomma l'impegno era di tempo molto ampio. Dall'altro lato, dall'altro canto, un effetto estremamente positivo sulla vita di noi che ne facevamo parte è indubbiamente che abbiamo avuto moltissimo scambio con tutte le persone che abbiamo ospitato, persone con le quali io tuttora mi sento, sono in contatto, sono in rapporti. Per te invece, Susan? Si può dire che è stato snervante, perché no, è la verità, dai, cioè lo pensavamo tutti, lo pensava anche lui, non l'ha detto, ecco. Lo volevo un po' dire anch'io, però l'ho detto velato. E io l'ho detto esplicito, okay. Così ci completiamo vicenda. Vai. No, è stato veramente snervante perché c'è, allora, il concetto di lavorare come artista, alla fin fine, se ci pensiamo, è molto chiuso in se stesso, è molto il io voglio esprimere quello che ho dentro, e paradossalmente ci chiudiamo di più per poter realizzare al meglio quella che è l'opera e poi portarla fuori in mostra. Invece collaborare con altre persone costantemente mentre stai realizzando una mostra, un progetto artistico o qualsiasi cosa che ti obblighi a collaborare con gli altri, ti obbliga, nonostante ci sia tutto quel discorso dell'intimità che ho fatto prima, ti obbliga a uscire dalla tua persona. Ed è, cioè, bellissimo ma spaesante, che comunque è una cosa meravigliosa, è una duplicità stupenda. Poi vedere come le altre persone si approcciano al lavoro, perché ad esempio ho un modo molto molto maniacale, organizzo le liste, c'è l'orario per far questo e quello, invece altre persone hanno dei modi completamente differenti. Quindi è un'esperienza che forse non tutti sono disposti a fare, ma che tutti forse dovrebbero provare, a mio parere. Ok, grazie mille. E come sapete, questa è una radio che che punta molto sul nostro quartiere, e appunto proprio parlando del nostro quartiere ci piacerebbe sapere qual è stato l'impatto che il quartiere stesso, sia come zona universitaria e come città universitaria, ha avuto su quelle che sono le vostre vite. Io penso che il rilievo che ha avuto il quartiere sul progetto sia principalmente dato dal fatto che la casa di Interno 4 si trovava molto vicino all'Accademia, quindi in realtà, oltre ad essere la sede del nostro progetto, era un po' anche molto spesso un secondo laboratorio di pittura, quindi quando l'Accademia chiudeva capitava molto spesso che con altri ex colleghi di Accademia si andasse a casa, quindi questa vicinanza, l'appartenenza a questo quartiere indubbiamente ha giocato questo ruolo di luogo che è presente qui, e quindi ci ha permesso di accendere tutta una serie di connessioni e di conoscenze. A livello invece sociale non saprei dirti se il quartiere in un qualche modo ha influito sul progetto, ma a volte ci piaceva scherzare sul fatto che Piazza Verdi fosse un po', come dire, il degrado, tra virgolette, e noi stessimo lì a cercare in un qualche modo di portare del bello e del buono anche in quella situazione. Quindi probabilmente c'è questa cosa che si può dire. Susan, invece tu, che attualmente frequenti l'Accademia, come te lo vivi il quartiere, la nostra zona? Allora, è come una seconda casa. Io accenno che non sono di Bologna, non ho neanche casa qua, quindi venire dall'esterno ogni giorno col treno e avere uno spazio che è quello della zona universitaria che conosco così bene e ho delle persone vicine, ricrea anche quell'idea di intimità che ci siamo detti, ridetti prima, ed è stupendo perché abbiamo questi posti che sono ormai le nostre piccole case, che sono tutti i baretti che abbiamo mappato dove facciamo le riunioni, abbiamo i punti di incontro e incredibilmente non... Cioè, se ci pensate adesso è assurdo, però non abbiamo mai riflettuto come lo spazio dove lavoriamo e ci incontriamo sia influente sul nostro lavoro e soprattutto sulle persone che incontriamo e che ci permettono talvolta di fare dei progetti. Però è essenzialmente il quartiere universitario ed è una gran ricchezza. È verissimo, grazie mille. Grazie davvero a Susan e Nicola per tutte queste cose che ci hanno raccontato. Io poi, che sono esterna all'Accademia, ho scoperto un sacco di cose. Ma volete ringraziare anche voi magari, ragazze? Beh, certo, assolutamente. Grazie per la disponibilità e per essere venuti qui oggi a fare due chiacchiere con noi. Esatto, e di averci condiviso effettivamente la vostra passata e presente esperienza. E a proposito di condividere, magari chi ci sta ascoltando è curioso di sapere se ci sono dei posti nell'etere, online, social, cose varie ed eventuali, su cui possono andare a prendere più informazioni sulle vostre realtà passate, presenti. Nicola? Allora, Interno 4 ha un blog che è bolognainterno4.blogspot.com. Con un po' di nome che viene diretto dal 2010. Però... Ma noi siamo curiosi di fare un salto nel passato. Ok, noi abbiamo un canale un po' più fresco che su Instagram ci trovate come bedroom_opencollective. Ah. Che presto verrà aggiornato, è un po' dormiente ma adesso verrà aggiornato. Siamo tutti un po' in letargo in questo momento, però chi vuole li può andare a cercare. Grazie davvero per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Alla prossima, ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ho ripreso il microfono, l'avevo lasciato ai nostri ospiti per presentare un pezzo che a me sta molto a cuore. Ma perché ti piace o perché l'ha scelto in particolare una persona? No, perché l'ha scelto Daniele Di Feo, ma soprattutto perché è di un gruppo della mia terra. Ah, campanilismo! Ascoltiamo i Verdena con Mi Coltivo. Eccoci ritornati qua sulle frequenze di Radio Città Fujiko, sempre con i nostri 50 minuti di riparazioni, in realtà ormai sono 25 perché siamo a metà puntata, e ritorniamo con le nostre Camilla e Molly sulle tracce del tema della giornata, che è coltivare. Abbiamo sentito, mi guardi perplessa Molly, è sempre coltivare il tema della sempre giornata. Coltivare, sempre coltivare. Sempre coltivare. Abbiamo sentito le voci di Nicola Melinelli e di Susa Quartesan. Bravissima, che braccio. Chiami di cognome con lo schiocco di... Sì, perché no, chiamo i miei vuoti di memoria con lo schiocco. Vedi che gioco di squadra. Adesso però possiamo dire che le nostre due studentesse in questi mesi si sono adoperate, si sono sguinzagliate in giro per il quartiere anche oltre i confini dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, come peraltro, diciamo di nuovo, Riparazioni vuole proprio fare questo progetto di riparazioni, sfondare la quarta parete, no perché non siamo in teatro, le pareti dell'Accademia, andare nel quartiere. E avete indagato un po' che cosa? Beh Giulia, diciamo che ci siamo un po' intrufolate nei corridoi altrui, quindi siamo andati un po' ad indagare nelle altre facoltà del quartiere cosa effettivamente succede e cosa effettivamente gli altri ragazzi studiano, e ci siamo fatti raccontare qualcosina di molto interessante. Studio ostetricia all'Università di Bologna. Ma allora dipende, mi è capitato di incontrare un sacco di persone che non conoscessero ostetricia, quindi che non sapessero dell'esistenza di questa facoltà, però di solito poi quando spiego di cosa si tratta eccetera è sempre vista molto molto bene, con grande fascino. E sì, allora un episodio particolare che mi ha segnato e è stato diciamo molto bello sul momento è stato sicuramente il primo parto che ho assistito in casa maternità, quindi un parto a domicilio al di fuori dell'ospedale, probabilmente perché anche io essendo nata in casa ero molto toccata da questa cosa, ed è stato un parto molto emozionante che mi ha segnato durante questo percorso. Studio archeologia all'Università di Bologna e a dir la verità le persone hanno un'idea un po' stereotipata dell'archeologia, perché prendono come riferimento film famosi che hanno poco a che fare con la realtà e quindi pensano a grandi scoperte, viaggi lontani. In realtà poi quando vengono a parlare con quelli che sono, diventeranno i veri archeologi, capiscono che non è esattamente come credono. Un episodio che ricordo, che fa ancora molto ridere, risale a pochi anni fa, quando ero a scavare in una spiaggia dove abbiamo portato in luce un gran numero di sepolture etrusche, e ricordo che un giorno è arrivato un personaggio alquanto bizzarro che sosteneva di essere uno sciamano, e assieme alla compagna si è messo a fare dei riti con il tamburello e a bere l'acqua di uno scarico sostenendo che fosse sacra. In più, nel suo delirio, ha iniziato ad inveire contro di noi perché a quanto pare lui sentiva le voci dei morti e sosteneva che scavandoli e studiandoli noi non avevamo rispetto per le loro anime. Quando uno dice che studia matematica, tipicamente gli altri studenti fanno delle facce strane, a meno che non siano studenti di fisica. E dicono no, ma difficilissima, non ce la potrei mai fare, oppure vabbè, ma adesso farai i conti tu a tavola, no? Quando bisogna pagare. E invece no, tipicamente i matematici non fanno troppi conti, li fa il computer, diciamo. Okay. Ma forse la cosa, diciamo, più curiosa è che anche se è una materia molto astratta, per esempio mi è stato spiegato una volta a lezione il perché quando uno prende sulla pizza, la pizza di solito cade, ma invece piegandola la pizza rimane su e possiamo mangiarla comodamente. Quindi anche se è una cosa, diciamo, astratta, può dare delle spiegazioni su dei fatti di vita quotidiana. Ora, io studio biologia molecolare. Per studenti di facoltà ovviamente umanistiche è fantascienza. Sto facendo un tirocinio in neurobiologia, quindi lavoro comunque con neuroni, cellule del cervello, andiamo a vedere appunto che effetti hanno certe molecole sui neuroni, no? Che oggi abbiamo fatto appunto un caricamento di un esperimento ed è venuto, come posso dire, abbastanza male, quindi cioè, la ricerca è fatta appunto di più frustrazioni che altro, però non è così impensabile come tutti pensano, con le provette super mega fighini che viene tutto tipo CSI in CIS, no, cioè è molto più normale, molto più tribale di quello che si pensi. E abbiamo sentito tutte queste testimonianze che ci fanno ricordare una cosa bellissima, particolare. Il mondo è bello perché vario. Che il mondo è bello perché vario, già soltanto in questo studio radiofonico. Vero, signor Duccio? Sì, sì, mia mamma diceva sempre: su gusti non ci si sputa. Su gusti non ci si sputa. Le perle che ci regala lei. Però al di là dei gusti su cui non ci si sputa, la cosa bella di questo quartiere è che in un minuscolo spazio vitale, perché veramente parliamo di pochi incroci, poche strade, pochi chilometri quadrati, in realtà convivono condensate tantissime facoltà, tantissime vite diverse. Magari ci si incrocia con persone che studiano fittamente cose di cui non sapremo mai nulla e loro non sapranno nulla di quello che studiate voi qui in Accademia. Invece voi siete state brave, siete andate oltre questi confini della vostra... Brava, ma dillo. A scoprire. A cercare. A scoprire. Quali sono le cose che vi sono rimaste più impresse di io quello che vi hanno raccontato? Sicuro una cosa so. Io non mi avvicinerò mai a degli scavi archeologici. Questo sicuro. È rimasta traumatizzata? Traumatizzata, sì. Dallo sì. sciamano? Assolutamente. Tu, Camilla, che cosa ti ha colpito dei racconti fatti? Beh, io penso che non guarderò mai più una fetta di pizza nello stesso modo. Lo sguardo della Camilla anche sulla fetta di pizza riesce a mettere un po' particolare. E signor Duccio, senta, eccoci. Visto che le ragazze hanno fatto un'indagine hanno lavorato al contrario suo che... no io ho lavorato pure. Ha lavorato anche lei? Chiada al mio avvocato, ho lavorato. Ma perché devo sempre parlare col suo avvocato? Sto parlando direttamente con lei. Cioè, se una volta ha lavorato, ci racconti un pochino che cosa è andato a scoprire. Ma a me mi hanno detto di fare queste ricerche. Ma chi gliel'ha detto? Me l'hanno detto. Queste ricerche di gente qui famosa di questo triangolo qui. Un po'. Delle Bermude, cioè gente sì. famosa, gente che ha studiato. Sì, gente che ha studiato, che ha fatto delle cose, via. Ma in che periodo? Presente, passato, no, futuro? Passato, mi hanno detto passato, perché in Italia ci piace il passato. Il passato, giusto, del passato, beh, no? Un quartiere di grande storia, di grande importanza storica. Va bene, sì. Allora ci racconti un po' allora, del passato. Le metto pure la colonna sonora. Grazie, ideale. Grazie. Una colonna un po' grazie passata. Mille, Leo. E quindi in pratica i primi che ho trovato sono questi qui, i Carracci. Vabbè, dice nulla. Sì, dico, infatti non dico. E in pratica questi Annibale, Ludovico e un altro sono tre artisti bolognesi del XVII secolo. Sono uno e Trino e si presentano uno con la spalla destra, uno con la sinistra e l'ultimo con la fronte, con gli occhi rivolti al cielo. E in pratica di questi qui Annibale diventa famoso con il dipinto Il Mangia Fagioli, che dicono sia un simpatico autoritratto con... O qui ho scoperto è diventato famoso sui social, in quanto sì, attivista dei diritti per gli affetti da meteorismo, che a volte in questo studio, secondo me anch'io ho dei dubbi su qualcuno, ma non mi spiego. Motivo per il quale è costretto a lunghe passeggiate, da cui fonda l'Accademia degli Incamminati. Ma signor Duccio, questa è interpretazione simpatica. No, è così. E infatti questa Accademia ha tanto successo, soprattutto delle persone della terza età, che a loro volta sono stregate dall'idea di mantenersi in salute sentendosi liberi nello spirito, ma soprattutto nel corpo. Ah, è diventato un nuovo programma di fitness. Sì, in pratica sì. L'Accademia fondata dai Carracci. Poi sono andato avanti, ho trovato questo Aldrovandi. Ulisse Aldrovandi, appunto, è un entomologo e naturalista. Additato di essere un professorone di quelli della casta bolognese del Cinquecento. Ma l'hanno additato da chi? Reo di aver nascosto al popolo la ricetta della salsa teriyaki e di aver diffuso quella della teriyaka, un unguento medicinale che donava un pessimo sapore al sushi. Guardi, lo posso garantire. Non c'era. Si dice che una frangia più attivista della casta fosse contraria a questo inganno verso il volgo, ma le risate del resto dei professoroni umiliarono i tentativi di divulgazione. Tuttavia ci fu questa fuga di notizie che scatenò delle aspre rivolte popolari, come al solito la gente sa come fanno, così, che sedate da Ulisse stesso, che dicono gli scritti delle scritture, che scese dal cielo trainato da uno sciame di cavallette con le quali condivideva i suoi segreti e la sua vita professionale. Si dice infatti che si chiamasse Aldovrandi e che le cavallette lo abbiano poi ribattezzato Aldrovandi. Guardi, signor Duccio, che nella loro lingua significa maestro di inganni e inventore della salsa teriyaki. È una storia che mi ha colpito moltissimo. Colpito, non è proprio accurato, però si è impegnato. Incredibile, ricco di sfaccettature. È riuscito a mescolare Aldrovandi e l'esoterismo con questa cosa delle cavallette. No, vabbè, però lo dicono le scritture. Che sacre. I miei amici mi hanno dato queste scritture e c'è scritto così. Beh, si vede in pratica, frequenta gente strana. Poi, vada, l'ultimo, vada avanti, l'ultimo vada avanti. È Petrarca, lo conosce. Francesco Petrarca, come no, grande letterato. Sì, sì, è un poeta appunto, infatti, filologo. Studiato io. Letterato a Retina nel 300, che si è laureato all'Università di Bologna. Sì, per molti è considerato il primo umanista, data la sua concezione antropocentrica del mondo, che come lei sa è stata ereditata dal Trisavolo Mario Petrarca, che per primo, si oppose alla stramba, a suo dire, idea di Noè di includere solo animali nella sua arca e non persone al loro posto. Una lotta sindacale che gli valse l'ostracizzazione dall'arca e l'origine del suo cognome, Petrarca, ovvero colui che per una pietra venne cacciato dall'arca. È una storia incredibile. Lei ce l'ha sempre con i sindacali. Pietra decisiva che tale Laura, l'ex moglie di Mario, pose sul tavolo, causando un inquietante sentimento di odio e amore nei suoi confronti nel sangue petrarchesco, come un coro in una manifestazione studentesca che nasce dalla sua coda e si propaga sino alle grida in testa al corteo. Questo sentimento rimbalza di padre in figlio fino ad arrivare a Francesco, il quale ama e odia Laura per tutta la sua poesia, confessandoci, e qui qua c'è la citazione, prego: pace non trovo, et non ho da far guerra, e temo, e spero, e tardo e sono un ghiaccio, pascomi di dolore, piangendo rido, egualmente mi spiace morte e vita. In questo stato sono donna per voi. Oh, signor Duccio, guarda, complimenti, Io ho visto una lacrima in Leo Merati. Guardi che è inscalfibile il cuore di Leo Merati, eh? Io di solito devo dire, signor Lo Duccio. Lo so, ma la lotta ai sindacati fa anche questo. Fa anche questo, fa breccia nei cuori anche dei più forti. Così. È una brutta verità. Certe motivazioni sono universali, comunque. Infatti, forse per riprenderci un attimo, mandiamo un pezzo di Daniele Di Feo, che così così dopo tutti, Petrarca, no? Che cosa ci lancia Daniele Di Feo? La mia parte intollerante di Caparezza. Pascomi di dolore, vai. Una classe di classici, figli di no, dubbi amletici, tipici dei 16. Essere o non essere patetici, yes sì. Ho gli occhiali spessi, vedessi. Amici che spesso mi chiamano Nancy. In defessi mi pressano come uno stencil. Bud Spencer e Terence, repressi. Con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti. Da divi che invidi, vengono i brividi. Se per fare i fighi, lasciano lividi. Non vivo di pallone, non parlo di figone. Non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano le loro nuche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano. Se sei mite di te ridano come dito ta. Però che mal sento come me sa che, quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sa che, metto fuoco intorno a me. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa bella gente. A fianco al mio banco un ippopotamo, sniffa polvere da sparo. Dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace. Lo capisco, ma preferisco Carol. A dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi maravitosi. Vanitosi, ripresi, compose da bellicosi. Mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi. Studio in una classe di rissosi. Eccitati dai globuli rossi, manco fossero bella rugosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gente eccessivamente affettuosi. A 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me, che sono debole, che non ho regole, che ho roba demode, che detesto i cliché dell'uomo che non deve chiedere mai. Dato che se non chiedi non sai, dato che adoro World of Wild, dato che se mi cerchi mi troverai nel via vai di un gay pride. Ma sappi che se mi provocherai sono guai, Dr. Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazza stecchito con Ride. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa bella gente. Cari professori miei, io vorrei che in giro ci fossero meno bulli del cazzo e più gay, più dreadlock e meno Moncler, più stratocaster e meno DJ. Chiama la spiega di Blair, che ho un progetto in mente, rimanere sempre adolescente. Io sono molto calmo ma nella mente un virus latente, inclina ad azioni violente. Si sente sempre più spesso che sono un pazzo depresso. Meglio depressi che stronzi del tipo me ne fotto, perché non dicono io mi interesso? Che se inculi non ci presso, dunque, tanto il mio destino è stare solo con chiunque. Alle bestie regalerò i miei sorrisi come Francesco d'Assisi e pipì calze lunghe. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa bella gente. Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante. E dopo questa strafugnata che ci ha dato Caparezza di prima mattina, Leo, lo sai cosa vuol dire strafugnata? Ti ha spettinato, abbiamo un po' strapazzato, termine bolognese, ti segno un po' di felsinio. Sì, come si potrebbe dire, signor Duccio? Scomodo. Scomodo. L'ho visto in un'intervista di Povia, che lo diceva molto spesso. Perché lei è veramente una persona che rispetto dal Medioevo molto. Ai salotti televisivi copre e si interessa veramente di tutto. Però guardi che sul fronte musicale la trovo più preparata. Oggi in generale la trovo più preparata del solito. Sembra che queste... sì, esatto, stiamo migliorando. Sono un diesel io. Lei è un diesel. Pensavo che andasse con i cavalli, invece adesso anche di diesel si intende. Comunque, torniamo. Un momento bellissimo. Bellissimo. Questo è proprio uno dei momenti, secondo me, più alti. Sì, sì, sì, sì. Nel senso che proprio corrisponde a quella che per me è ricerca. Ed è arte. Ed è arte. È proprio la mia idea, no, senza nulla togliere all'Accademia di Belle Arti. Però, visto che ci stiamo dedicando al tema del coltivare saperi, passioni, in particolare riferimento al quartiere dell'Accademia dell'Università, noi abbiamo fatto questa ricerca veramente così attuale, sul pezzo. Siamo andate là. Google ci è stato utile. Google ci è stato utile. Oggi, quando si vuole fare ricerca, si cerca su Google. E cosa avete fatto? Siete andate a cercare delle recensioni che ci parlano della nostra università e anche dell'Accademia di Belle Arti. Ebbene sì, abbiamo qualche piccola perla per voi. Sentiamola. Federico, Unibo, una prigione ben congegnata. Chiara, vengo dalla Calabria. Se ho scelto Bologna, ci sarà un motivo. Robby, tutto molto belo. Belo? Matilde. Non fa lettere, spero, Robby. Matilde, sono al primo anno. Non posso dire molto. Stefania, tutto sommato è un miracolo che non sia ancora esplosa. Ma chi, Stefania o l'università? È questa la bella domanda. Bella domanda. Kevin, non la consiglierei a mia sorella. Paolo, Bologna, state on mine. Tony, a Bologna, alma mater, è compagna grande mamma. La poeta, Tony. Alessandro, sporco degrado, spaccio, casino di notte. Forse qualcuno studia anche. Forse. Mi piace questo Alessandro. Un bravo ragazzo. Sull'intolleranza è sempre a suo agio. Gianni, la più antica e autorevole scuola del pianeta, con buona pace degli angeli, che quando alla Bononia Matrem Studiorum si insegnava, al mondo manco scrivevano momenti. tramite Federico. A Lucca, dove negavamo la pena di morte. Beh, sempre deve tornare sulle sue origini. Federico, Duccio, che te devo dire? A casa. Mario, una vecchia università del mondo. Una ce n'è. Una. Andreas, la migliore panna cotta di sempre. Ilaria, fa schifo. Se vi volete laureare, non vi iscrivete a Bologna. Se invece volete perdere la voglia di vivere e diventare vecchia a 20 anni, è il posto giusto per voi. Madonna, che depressione! Isabella, scioperi rivoluzionari, anarchici, collettivi studenteschi. Si studia poco e non si fa niente. Questa l'ha scritta lei, signor Duccio. Allora, io non lo volevo dire, non lo volevo dire, però sì. Un po' mi ha emozionato sentirmi era letto un nome da... in codice. È il tuo alter ego. Allora l'hai imparato a usare Google alla fine. Ma voi sottovalutate. Lo sottovalutiamo. Diana, alma mater pipporum. Evi, sala studio per studenti di matematica. Caffè pessimo, ma buona energia. Pami, ottimo luogo dove pranzare sulle scale. Ma dove? Le scale. E capire quali? Sono tutte belle. Tutte. Massimiliano, ottimo posto di perdizione. Simo, scienze dell'educazione molto bella. Ci fanno anche gli eventi. Roberto, la facoltà di storia non è una scuola, è un covo di rivoluzionari radical chic. Questa anche l'ha scritta lei, signor Duccio. No, vabbè, ora non mi voglio prendere il merito, ecco, proprio per tutto, però insomma, mi pare che quelle più di impatto si capisca quali siano. Ma sono vere, no? Se no sembra che l'ha scritta tutte il signor Duccio. Sono vere, raga. Andiamo avanti. Marica, tutto bello e commovente. Dalla Betulla, dall'ombra sessile alla palazzina Umbertina dove vissono gli studi dei miei docenti. Mi pare di vivere un sogno. Dopo l'esperienza dell'Università di Parma, fatta in gioventù, quando per una malattia ho rischiato di morire. Una seconda chance. Oh, giovane Werther. Qua. Natalia. Qui si respira Bologna. Qui si respira l'ingenua voglia di libertà che la giovinezza dona. Flavio. Lettere a un fantastico edificio e aule spaziose. Peccato per le scale che portano un grande fiatone una volta giunte all'ultimo piano. In forma quanto lei, signor Duccio, il Flavio. E poi piccolo rullo di tamburi, passiamo all'Accademia di Belle Arti. Remy, inferno. Chiara, non ci sono mai entrata di persona, ma ci vorrei andare come studentesca appena finisco le medie. Come studentesca? Studentesca, sì, studentesca. Come scolaresca. Giulio, ottima esperienza accademica. Sara, è carina, è una bella università, ma devo ancora laurearmi, quindi vedremo. Peccato che sia l'Accademia. Peccato, Sara ci metterà molto, probabilmente, comunque, a laurearsi. Mette le mani avanti, no, Sara, certo. Non si sbilancia prima della fine del percorso. È vero, perché sottolineiamo che qua non ci si laurea, ci si... Diploma. Ma è equiparato. Vale come una laurea. Sì, ha solo la dicitura diversa. Però è quello che gli fanno credere. Siete proprio carini. Noi ci crediamo. Cioè queste noi guanciotte da equipollenti che avete. Signor Duccio, lei comincia a essere a suo agio all'Accademia di Belle Arti. Bravo. Anche un po' troppo. Beh, allora siamo arrivati all'ultima parte della nostra puntata del Coltivare. E come nostro solito non possiamo che chiudere la puntata con la tradizionale rubrica degli ultimi minuti, secondi, che si chiama Non solo birrette, ovvero eventi, ricordi, eventi, appunti, cose che succederanno nella settimana da qui a venire. Ragazze, prego. Sabato 17 giugno alle 21:30 e di nuovo alle 22:30 in piazzetta Roberto Raviola e in piazza Puntoni abbiamo la sfilata Crossing Threads, sfilata di moda degli studenti del corso di Fashion Design del biennio, in cui renderanno visibili al pubblico gli abiti realizzati durante il corso dell'anno. Si prevede anche la possibilità di coinvolgere cittadini e cittadini che sono appunto residenti nel nostro caro quartiere di cui stiamo parlando fino adesso. Iniziativa che fa sempre parte di Riparazione. Assolutamente. Ricordiamo poi che fino al 25 giugno in Pinacoteca è possibile vedere effettivamente la mostra con i vincitori del premio Incisione Giorgio Morandi, che è ingresso libero, ricordiamo. Importante questo. Passiamo alla parte un po' più underground. In via Mascarella Alta è in corso attualmente la 25esima edizione del Salottino Jazz, Questa sera appunto alle 21.15 ci sarà un evento. Ai Giardini Filippo Re invece è iniziato dal 16 giugno il Botanic Festival. E con questo vi abbiamo dato tutti gli appuntamenti della settimana. Bravissime, bravissime. Chiusa non solo birrette, chiusa anche questa puntata. Grazie per essere state con noi alla co-conduzione. Grazie Camilla, grazie Molly. Grazie a voi Stellina. Maria Rosa, grazie. Grazie mille. Grazie signor molto Duccio. Molto brave e grazie signor Duccio. Come guardi, sempre, un bel salto di qualità. Veramente? No, ma lo capisco. Lo capisce? C'è una certa consapevolezza. Sì, bravo, metacognitiva. Bravo. Ci sentiamo venerdì prossimo, sempre alle 10:30, qui su Radio Città Fujiko. Buona giornata, ciao!